Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 9 luglio 2015. Ricerca sulla nutrizione. L'INRAN dà il suo contributo ad Expo 2015. 3 anni fa l'INRAN era a rischio chiusura in seguito all'accorpamento con altre istituzioni di ricerca pubbliche. 3 anni dopo, l'atteso appuntamento dell'Expo ha restituito all'Istituto Nazionale per la Ricerca sull'Alimentazione e la Nutrizione un ruolo da protagonista. Sono infatti state attivate in questi anni una serie di collaborazioni di ricerca e divulgazione scientifica e culturale che l'Esposizione Universale di Milano sta valorizzando in una serie di proposte e iniziative. L'INRAN si è così rilanciato come struttura di ricerca a livello internazionale. Fin qui la notizia del 9 luglio 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radici nel presente in questo 2012. In questi giorni, infatti, l'INRAN è al centro di un acceso dibattito in relazione al suo accorpamento con altre strutture pubbliche. Si rinnovano da più parti gli appelli a salvaguardare l'istituto e soprattutto la sua capacità di ricerca in un settore, il cibo e la nutrizione, che vede da sempre l'Italia protagonista. Mario Colombo, presidente dell'INRAN, spiega così quale ruolo potrebbe avere l'istituto in occasione di Expo 2015. L'INRAN rappresenta la sintesi di Expo 2015, l'alimentazione. Teniamo conto che siamo abituati oggi a dividere il mondo in ricchi, poveri, nord e sud, ma il mondo si divide anche in gente che muore di fame e gente che è obesa. È una suddivisione che dipende comunque sia da una cattiva, da una scarsa o da un'eccessiva alimentazione. L'INRAN si occupa di questi argomenti. Quindi là dove c'è una scarsa alimentazione e a volte c'è un'alimentazione non scarsa ma di pessima qualità, l'INRAN già attualmente ha dei progetti in corso. Pochi mesi fa abbiamo stipulato un accordo con un paese africano per andare a approfondire l'uso di alimenti locali che consentano a quelle popolazioni di non vivere nello stato di oblio, di difficoltà che attualmente vivono. Expo che cosa dovrebbe essere? Expo dovrebbe essere un sistema per indirizzare anche l'alimentazione tramite una maggiore conoscenza dell'alimento anche nei paesi ricchi, dove l'obesità procura comunque danni tanto quanto li procura la mancanza di alimento o la cattiva qualità di alimento nei paesi poveri. Quindi a pieno titolo l'INRAN, a tutto tondo, a 360 gradi, può intervenire, deve intervenire in Expo 2015. Preciso che abbiamo già avuto dei rapporti ufficiosi, ci stiamo vedendo di formalizzarli. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.